In a moment, you'll hear more of that recorded voice, but first a few new words and phrases. Come al solito? Certo, come al solito. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Si prega di... Please, a formal expression used mainly in instructions. Si prega di... Consultare. To consult. Consultare. Il servizio informazioni abbonati. Directory inquiries. Il servizio informazioni abbonati. Mio marito. My husband. Mio marito. Colpa. Fault. Colpa. Ed ora ascolti le parole e le espressioni nuove. And when you're confident with them, continui con la prossima conversazione.